4 mattino. Buongiorno Simone e buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla città di Kemerovo in Siberia, in Russia. Adesso i russi cominciano a martellarmi. Ah, ma in Italia sono tutti malati. Oh, volevo venire in Italia a farmi le vacanze. Meglio che non ci venga. E in Russia non si parla d'altro che in Italia sprovveduti. Che arriva una malattia da così lontano. La Russia confina con la Cina, eppure niente di questo. Forse due casi. Forse. Capito? Allora cosa facciamo? Buongiorno terroristi, andiamo avanti anche oggi a distruggere tutto quel poco che è rimasto. Coraggio ragazzi, che sono già le 6:38 e ancora non abbiamo parlato di sto cazzo di coronavirus, dai! Ma alle conferenze stampa chi ci so, chi c'è? Ci sono i giornalisti e i giornalisti poi scrivono, fanno i titoli. Allora, diamo anche colpa ai media. Ma sì, sì, l'abbiamo fatto abbondantemente, l'abbiamo fatto abbondantemente. Siamo presi le nostre colpe, ammesso che siano nostre nello specifico, appunto. Seconda parte di 24 mattino, 7:19 minuti 25 secondi di questo giovedì 27 febbraio, al microfono sempre Simone Spezia. Per quanto riguarda la Russia, non so, però tutti dicono che in molti altri paesi i controlli si stanno facendo in maniera diversa. Tra un attimo ci arriviamo, perché come vi dicevo c'è un'intervista molto interessante oggi, forse la più interessante di oggi è quella su questo fronte specifico a Walter Ricciardi sul Corriere della Sera, ma ve la racconto tra un attimo. I titoli innanzitutto, come sempre, in questa parte dedicata alla rassegna stampa. Corriere della Sera, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, bene l'Italia, basta panico. Il Messaggero, virus, indennizzi e aiuti al turismo. E a Roma 3 guariti su 3, si può fare, scrive il Messaggero. Idea antivirus, governo d'emergenza, scrive la stampa. E come capite la questione si sposta sulla politica, come dicevamo, con Salvini e Renzi che, secondo le indiscrezioni, sarebbero intenzionati a sfruttare l'occasione del virus per far cadere Conte. Riapriamo Milano, l'appello di Beppe Sara, del sindaco, sul quotidiano La Repubblica, e anche qua si parla di Renzi e Salvini che attaccano Conte. Allarme morbo, scatta il dietrofront, scrive il quotidiano nazionale. Desiderio di guarire, il titolo di Avvenire. Fontana virus, il governatore in quarantena, è il titolo del Fatto Quotidiano. Cambia il vento e forse anche il governo, scrive il giornale. Virus, ora si esagera, scrive Libero. Diamoci tutti una calmata, esorta. Mattarella mette Conte in isolamento, titola La Verità. Misure tampone, consueto gioco di parole per il Manifesto. E il Sole 24 Ore è l'aspetto economico, poi ci arriveremo anche col nostro direttore alle 7:45. Turismo, meccanica, moda, 2020 in fumo, le imprese chiedono di fare di più. E poi si parla di un Conte sotto assedio che abbassa i toni. Infine la Gazzetta dello Sport, con un occhio sempre alle chiusure, ovviamente. Inter nel vuoto di San Siro, ma... e qui fa vedere anche le foto dei giocatori del Ludogorets che arrivano con le mascherine. E però il titolo forte è per la Juve. Juve, dove sei dopo la sconfitta 1-0 contro il Lione? Sempre 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. Tra l'altro qualcuno ci scrive, Paolo da Verona dice: mio nipote è un trasfertista, è bloccato in Russia, non può tornare in Italia. Fate come sempre sentire la vostra voce. Ci trovate anche su Facebook in diretta, siamo là, così come ci trovate su Instagram. L'account è 24 mattino. dove vi chiediamo ogni tanto di mandare le vostre foto, quelle del vostro risveglio, di quello che vedete dalla finestra, dal finestrino, per raccontarci un po' com'è questa apertura di giornata degli ascoltatori di Radio 24, ma dove ogni tanto postiamo anche qualche video. L'ultimo lo trovate là, naturalmente, nel quale, insomma, vi invito un po' a discutere se queste misure prese da governo e regioni, non scordiamoci che sono due i soggetti, sono eccessive oppure no. Iniziamo come sempre però in questa prima parte parlando d'altro, non degli argomenti centrali, non di quelli che hanno a che fare con il coronavirus, e prendiamoci un attimo per toccare temi che hanno a che fare con il nostro paese, con il suo funzionamento bizzarro. È una notizia in piccolo, quella che ci racconta Ilaria Proietti a pagina 16 di taglio basso. Cosa vuol dire di taglio basso? Nella parte bassa della pagina, e che ha a che fare sul Fatto Quotidiano e ha a che fare con la politica. Cosa succede? Alla Camera balla un seggio tra Movimento 5 Stelle e Lega. Un seggio in più o in meno. Se la giocano per una manciata di voti, due persone, collegio uninominale di Guidonia nel Lazio, Sebastiano Cubeddu, dei 5 Stelle, eletto per 28 voti, e Barbara Saltamartini del Carroccio, entrata comunque in Parlamento perché eletta anche in un collegio plurinominale. Ci dovrebbe essere un riconteggio per capire a chi va questo seggio in Parlamento. Ma cosa succede? Le schede sono bagnate. Il riconteggio è impossibile. Io non so veramente cosa dire. È risultato che le buste affluite al Tribunale di Tivoli, allora Stefano Carmine De Michele, il presidente del Tribunale di Tivoli, alla richiesta di riconteggio ha detto no, non è in grado di trasmettere le schede a Montecitorio, dove il seggio contestato è congelato dal 4 marzo 2018 in attesa di verifiche. Si è fatto in tempo a consultare i verbali, ad acquisire le schede bianche, nulle contestate, che hanno ribaltato il verdetto delle urne, certificando un vantaggio di 115 voti per la Saltamartini. Impossibile però acquisire anche le schede valide. Che cosa è successo? Erano state opportunamente ricoverate in un locale chiuso, ma una copiosa perdita di acqua, verificatasi nell'aprile 2019, ha reso il relativo materiale cartaceo una poltiglia inconsultabile, testuali parole del presidente del tribunale, eliminato poi per ragioni di sicurezza e igiene assieme ad altro materiale attinente a diverse consultazioni elettorali. Cosa succede? Succede che il tribunale in realtà un archivio vero e proprio non ce l'ha, e quindi a quanto risulta, a quanto raccontano alcuni degli avvocati, membri della giunta per le elezioni della Camera, dicono, insomma, ma non sarà che le avevano conservate in bagno? E cosa emerge? Emerge che il tribunale in questione non ha un archivio degno di questo nome. Il ministero ha provveduto come ha potuto, concedendo il noleggio di due container a Guidonia Montecelio almeno fino a maggio, ma la frittata era fatta, perché nel frattempo il tubo era saltato e i liquami avevano fatto il resto, rendendo indisponibili per sempre le schede delle politiche del 2018. Dunque, schede elettorali, fradice, insomma, finite, come si dice, quasi nello scarico, viene da dire. Una storia più dura e più dolorosa è quella che ci racconta Libero a pagina 16, alla quale si accompagna quella raccontata dalla Nazione nella pagina 8 delle cronache fiorentine. Sono tutte due storie che hanno a che fare con i figli e con la giustizia, visto che nei tribunali siamo, nei tribunali rimaniamo. Il tema della giustizia a rilento. Il tribunale toglie i figli ai genitori, dopo un anno ancora non ha deciso a chi darli, racconta Simona Pletto. Questo è solamente il titolo di Libero a pagina 16. La storia è questa, è di Luca, strappato dalle braccia del padre e della madre a soli 9 mesi, quando ancora si nutriva dal suo seno. Maria, la sorellina più grande, di appena 2 anni e mezzo, anche lei allontanata dai genitori. Succede tutto in un pronto soccorso della capitale, quando il padre denuncia la madre da cui si stava separando, accusandola di aver picchiato la piccola. Lei dice no, in realtà è caduta e si è fatta male, però scatta il putiferio e parte questa che Simona Pletto definisce come un'infernale, lentissima macchina della giustizia che per loro ancora oggi, a distanza di un anno, non ha ancora deciso un bel nulla, congelando così sentimenti, sogni, diritti a coccole e baci. È stato concesso ai genitori di vedere separatamente, ovviamente, per 2 ore al mese i bambini, parliamo di bambini di 2 anni, uno di 2 anni, una di 2 anni, uno che adesso ne avrà 3 naturalmente, e un altro di 1 anno e mezzo, di 1 anno e 9 mesi, una banale lite domestica scoppiata tra coniugi, il padre dice che la piccola è stata picchiata, la madre appunto dice che è caduta e il tribunale ancora non decide. Le continue richieste ai giudici, che fino a ieri hanno omesso di prendere qualsivoglia decisione, nonostante il parere favorevole del pubblico ministero e una relazione degli assistenti sociali che hanno rimarcato l'inadeguatezza di una frequentazione così sporadica. Eppure queste responsabilità continuano a essere rimpallate tra uffici giudiziari. E un'altra storia di giustizia che ha a che fare con i bambini, che ha a che fare con le accuse rivolte durante una causa di separazione, durante una situazione di separazione, ce la racconta, come si diceva, La Nazione a pagina 8 nelle cronache, a pagina 8 delle cronache fiorentine. È Stefano Brogioni che ne scrive ed è la storia di un padre accusato di abusi sessuali nei confronti delle 2 figlie, dalla moglie dalla quale si stava separando. 8 e 4 anni all'epoca le 2 ragazzine, oggi 2 ragazze. La moglie aveva raccontato di averlo trovato nel letto con le 2 bambine a guardare un film pornografico. Ma cosa succede? Dopo 8 anni e 7 processi viene assolto, dopo non aver potuto vedere le figlie per tutto questo tempo. Cosa succede? Succede che la prima sentenza lo condanna, e i difensori optano per il rito abbreviato, il processo si conclude con una condanna pesantissima per ognuna delle imputazioni a lui contestate, 7 anni e mezzo di reclusione più le pene accessorie, si va in appello, pena leggermente mitigata a 5 anni, ma nel maggio del 2015 la Cassazione rimanda indietro il procedimento per, attenzione, mancanza, illogicità, contraddittorietà delle motivazioni in ordine alle prove e soprattutto in ordine alla non corretta delle valutazione delle dichiarazioni rese in incidente probatorio dalle figlie minori. E dunque sia il primo grado che l'appello non avrebbero valutato correttamente le dichiarazioni delle 2 ragazzine, delle 2 ragazze, non avrebbero valutato correttamente le prove, e dunque quest'uomo per otto anni è stato in un calvario giudiziario. Altra vicenda di giustizia, questa ovviamente sta facendo discutere ed è più ampia, è quella che ha a che fare con la vicenda del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso lo scorso 26 luglio a Roma con 11 coltellate, perché ieri, come ben sapete, è iniziato il processo. Vedremo come andrà a finire. Oggi trovate un po' di cronache sui giornali, a pagina 45 in cronaca di Roma Il Messaggero è lo spazio più ampio, a pagina 22 del Corriere della Sera ci si ritorna con Ilaria Sacchettoni dopo i 2 pezzi di Fiorenza Sarzanini, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che raccontavano invece di come queste intercettazioni ambientali fatte in carcere agli assassini di Cerciello Rega fossero state tradotte in maniera sbagliata, raccontando appunto che i 2 ragazzi avrebbero saputo che Cerciello Rega era un carabiniere, mentre invece sostengono loro i due non l'hanno mai saputo e anzi pensavano che fosse un malvivente. Detto ciò, ovviamente l'omicidio resta e questo non è mai stato negato. E però fatemi chiudere questa parte con una storia che è sempre a pagina 22 del Corriere della Sera. Un ascoltatore poco fa ci scriveva: ne parlate degli arresti in Calabria per voto di scambio? Sì, l'abbiamo accennato ieri in rassegna stampa, ci torniamo oggi perché a pagina 22 del Corriere ci racconta una storia, Giovanni Bianconi e Carlo Macri ci raccontano la storia di Ivana Fava, 34 anni. Chi è? È la moglie di Nino Creazzo, arrestato ieri dalla direzione distrettuale antimafia con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso, di fatto di aver ricevuto i voti dei boss per diventare consigliere regionale calabrese. Però Ivana Fava, che ha 34 anni, è innanzitutto un tenente dei carabinieri e in secondo luogo è figlia dell'appuntato dei carabinieri Antonino Fava, assassinato insieme al collega Vincenzo Garofalo il 18 gennaio 94 alle porte di Reggio Calabria, e si trova in moglie un uomo che in moglie ad un uomo che in questo momento viene arrestato per voto di scambio politico-mafioso. Dunque parla, dice: sono allibita, spiazzata, sconcertata, devo rimanere lucida per capire se mio marito è innocente e quindi va tirato fuori dal carcere o se ha delle responsabilità, perché se risulterà colpevole, io, figlia di un servitore dello Stato ucciso dall''ndrangheta, resterò dalla parte dello Stato. Una pausa. Mattino. Allora, la parte centrale della nostra rassegna stampa, dopo esserci occupati di altri temi, lo dico agli ascoltatori che si fossero collegati solamente adesso, insomma, no? Perché sennò ci dite, parlate solo di Covid-19, del coronavirus. No, abbiamo parlato di altro fino adesso. Adesso la parte centrale della nostra rassegna stampa è dedicata un po' a questo. Ma anche qua, fatemi iniziare. Volevo iniziare da qualcosa di laterale, ma in realtà la cosa dalla quale vorrei iniziare è quest'intervista che mi pare la più rilevante in questo momento di che Walter Ricciardi, 60 anni, ordinario di Genera Cattolica di Milano, membro del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e ora è consulente del ministro Speranza per la vicenda del coronavirus, quello che dice a Margherita De Bac sul Corriere della Sera a pagina 3. Cosa dice? Chi ha dato l'indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi ha sbagliato. La strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all'evidenza scientifica. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riprese dall'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio, non sono state applicate. Prevedevano che fossero fatti i test solo su soggetti sintomatici, quindi quelli che hanno la tosse, il raffreddore, quelli che presentano i sintomi, come stanno facendo tutti gli altri paesi del resto. In presenza di due caratteristiche, il contatto con malati di Covid-19 accertati e la provenienza da zone di focolai. Il risultato qual è stato, chiede De Bac? Generare confusione e allarme sociale. Oggi in tutto il mondo abbiamo test non perfetti dal punto di vista della sensibilità, perché messi a punto in poco tempo e devono essere perfezionati. Attenzione, perché qua arriva uno snodo importante. Quindi c'è un'ampia possibilità di sovrastimare la positività. Bisogna utilizzarli in modo appropriato. Vuol dire che una parte dei casi annunciati non erano definitivi? Significa che i casi verificati sono 190, confermati dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha il compito di validare l'eventuale positività dei test condotti nei laboratori locali. Quindi meno dei 424 casi dichiarati, che invece includono quelli in attesa di conferma. Il risultato delle positività è stato anticipato dalle regioni, il Veneto ma anche la Liguria, e il Ministero della Salute, per obbligo di trasparenza, si è trovato nelle condizioni di comunicare all'Organizzazione Mondiale della Sanità queste informazioni. Quindi non solo c'è stata una scelta sbagliata di fare i tamponi anche alle persone asintomatiche, cosa che gli altri paesi non fanno, ma c'è anche una sovrastima abbondantissima dei casi di positività. Così ci racconta Walter Ricciardi. Volete un pezzo di come funziona il paese? Anche su questi temi c'è pagina 4 del Fatto Quotidiano, c'è Alessandro Mantovani che ci racconta quello che succede con il centralino 1500, qual è il centralino al quale i cittadini possono chiamare per rivolgersi, chiedere informazioni, aiuto e tutto quel che sappiamo. E dunque nel pezzo, che poi il pezzo nel quale si racconta anche dei contagi, della nuova vittima, eccetera, eccetera, si racconta che a Milano i centralini scoppiano tra le 250.000 e le 350.000 chiamate al giorno al 112 al numero verde della Regione Lombardia. Si è sfiorata una rissa davanti ad un ambulatorio pubblico. A Roma, dopo le polemiche dei giorni scorsi sui ritardi nelle risposte al numero 1500, si è dimessa la responsabile del servizio, Francesca Zaffino. Ma sentite qua, ha lamentato una telefonia che zoppica, la mancanza di un sistema di informatizzazione della chiamata che doveva essere trascritta a mano. Nel 2020 le chiamate che arrivano al numero 1500 che deve, quindi lo avete capito, deve smistare tutte le telefonate di richieste di informazione che arrivano dai cittadini, ogni telefonata deve essere trascritta a mano, non viene informatizzata, e siamo nel 2020. Carenze e limiti di formazione del personale. L'utilizzo di personale non medico avrebbe potuto abbassare i tempi di attesa, ma abbasserà altrettanto velocemente la qualità, perché le risposte ovviamente non saranno necessariamente quelle che richiedono i cittadini. Altre cronache rapide dal virus, no? Parte la pagina di Libero, strano ma virus, pagina 10, gliela sta dedicando ogni giorno, nella quale racconta tra le altre cose che al pronto soccorso di Terni è stata realizzata una camera sterile in un container. A Tossignano, piccola frazione in provincia di Bologna, salta la festa della polenta, ma perché... Si parla di Tossignano perché l'unica altra volta che era saltata la festa della polenta era nel 1630, ai tempi della peste. Tra le richieste di aiuto, segnala Libero, c'è anche quella dei Luna Park deserti che chiedono lo stato di crisi, e l'azienda che produce la mucchina che va verso nuove assunzioni nello stabilimento di Ancona. E anche, e qua peschiamo dal Fatto al Giornale, a pagina 11, un maxi sequestro di mascherine in metropolitana a Milano, mascherine al posto delle rose. I venditori ambulanti, si sa, fanno in fretta ad adattarsi alle esigenze dei clienti, lo sappiamo, perché quando piove fuori dalle metropolitane improvvisamente compare gente che prova a venderti un ombrello, e in questo caso ovviamente sono attrezzati con le mascherine. 745 sono state sequestrate, 4 ordini di allontanamento, e insomma una serie di sequestri in una serie di luoghi, appunto, a Milano, soprattutto nei dintorni della metropolitana. C'è una questione che ha a che fare col governo, che ce la racconta bene La Stampa a pagina 6. Il governo che si è un po' innervosito con le regioni e i sindaci, e lo sapete, le scuole sono state chiuse in totale autonomia da parte delle regioni, in particolare in riferimento evidentemente alla regione Marche. Regione Marche che ha deciso di procedere con la chiusura delle scuole nonostante il governo non fosse d'accordo, come avete sentito poi ieri nell'intervista che abbiamo realizzato alle 8.30 con la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Ha detto che non c'è nessun rischio per i nostri studenti di perdere l'anno, e soprattutto c'è l'idea di coordinare un po' meglio gli sforzi. Detto ciò, a seguito di quello che dicevamo dell'intervista di Ricciardi, sappiamo ormai, e lo racconta bene Il Messaggero a pagina 7 con Mauro Evangelisti, che da questo momento si partirà col tampone, col test, solamente a chi ha i sintomi, proprio per evitare che esploda la situazione, e questo è il quadro che arriva dal coronavirus. La cosa ha anche una coda politica, perché la coda politica la raccontano un po' tutti i quotidiani, in particolare ci si soffermano La Repubblica, ci si sofferma La Stampa, Il Giornale, Libero e La Verità, insomma entrano un po' più nel dettaglio su tutto questo. Ebbene, starebbe addirittura mettendo a rischio il governo, nel senso che ieri Salvini è salito al Quirinale per parlare col Presidente della Repubblica Mattarella, Renzi sarebbe in movimento secondo tutte le indiscrezioni che stanno circolando, tanto che Il Giornale si spinge a titolare "Cambia il vento e forse anche il governo". C'è l'idea, racconta D'Alberto Signore, di un esecutivo di unità nazionale che minaccia il Premier proprio nelle ore nelle quali sembra stabilizzarsi lo stato d'allerta per il coronavirus. La politica inizia a muoversi sotto traccia nel tentativo di aprire la strada a un governo di unità nazionale. D'altra parte, gli appelli alla coesione arrivati in questi giorni da quasi tutti i partiti sono stati molto più formali che sostanziali, e la gestione dell'emergenza da parte di Giuseppe Conte non ha certo aiutato, scrive Adalberto Signore. Visto che siamo sulla politica, in assenza di Paolo Mieli, fatemela dare a me una notizia sulle sardine, la trovate un po' su tutti i giornali, andiamo sul Corriere della Sera, pagina 41. gli amici ripartono dalle sardine. Non è un caso che sia pagina 41 e sia la pagina degli spettacoli, perché è esattamente quello che succede. Le sardine approdano alla piazza televisiva di Amici nella prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che riparte con un mese e mezzo di anticipo il 28 febbraio. Saranno ospiti Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli per parlare ai giovani contro l'odio. Sardine che commentano subito il gradito invito con un post social. Non c'è piazza che non valga la pena riempire. Venerdì sera le sardine si rivolgeranno ad una piazza nuova, fatta di altre storie. Traffico. Ultima parte della rassegna stampa. Saluto il nostro direttore del Sole 24 Ore e dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, per il nostro appuntamento del giovedì, eccoci. Buongiorno a tutti. Eccoci, allora, il Sole 24 Ore che oggi apre con i settori che al momento appaiono come quelli più a rischio, più colpiti: turismo, meccanica e moda, un 2020 addirittura in fumo, e le imprese che chiedono di fare di più. Appunto, il grande tema è, insomma, dopo la paura scatenata a partire da venerdì, di ritrovare un attimo di calma, come hai anche ben scritto nell'editoriale di martedì scorso, no? Ma certo, questo è un paese che le cui leadership hanno perso la Trebisonda e purtroppo poi a cascata anche il resto del paese non ha dato bella mostra di sé. Bisogna recuperare prima di tutto la virtù del buon senso e della ragionevolezza. Certo, non lasciare nulla di intentato, di non fatto per circoscrivere questa epidemia, ma nella consapevolezza che non si tratta di un disastro biblico, bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie, ma avendo ben presente un rischio perfino più grave, e cioè che questo paese chiuda abbassi le sale cinesche, finisca per schiantarsi, come ho scritto, con la velocità di una Ferrari contro il muro. Non è possibile avere reazioni emotive di questo tipo. E questo è un punto. Dall'altra parte, poi nel dettaglio, se vogliamo, lo segnalo agli ascoltatori, c'è un ottimo pezzo tra l'altro di Marco Morino, e siamo a pagina 3 del Sole 24 Ore, il quale ci segnala che la zona rossa e la zona gialla, per così dire, sono un po' quello che è il cuore logistico del paese, no? E il rischio da quelle parti è anche il blocco delle merci, magazzini a rilento per l'assenteismo dovuto alla paura da coronavirus. Ci sono molte aziende che operano ai margini di quest'area, anche l'area dell'Lodigiano e non solo: Amazon, Ikea, OVS, McDonald's e Unieuro. È solo uno dei tanti esempi delle difficoltà che si stanno vivendo. Come ci racconta Giulia Crivelli, c'è un'onda del virus che travolge anche la filiera del tessile moda. E però c'è anche qualcuno invece che dice, dopo i tanti rinvii e cancellazioni di manifestazioni dei giorni scorsi, il rinvio del Salone del Mobile, c'è qualcuno che dice: no ragazzi, noi andiamo avanti per la nostra strada, e sono quelli del Vinitaly. Fabio, ci dedichiamo la fotonotizia in prima. La scelta di fare come fotonotizia, tu l'hai ricordato, proprio il Vinitaly, è una scelta simbolica. Bisogna evitare a tutti i costi la paralisi, niente panico, grandi precauzioni, rispettare a lettera quello che viene detto di fare dalle autorità competenti, ma ripeto, il pericolo numero uno a questo punto non è il coronavirus, è la paralisi dell'economia, perché questo è destinato ad avere delle conseguenze pesanti sulla vita di tutti noi. In fondo vediamo anche che cosa accade oltre frontiera. A Parigi oggi, proprio in questi giorni, sono in corso le sfilate della moda e nessuno fa un plissé. Eh sì, tra l'altro tutto questo potrebbe portare a una nuova trattativa con l'Europa per avere maggiori margini di bilancio. Tra l'altro, lo ricordo agli ascoltatori, di questo parleremo oggi alle 8.30, avremo ospite il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, e ovviamente gli porremo molte domande anche su questo tema, su come il Paese intende reagire e come il Governo intende intervenire da questo lato. Per così dire, si aprono degli spazi di bilancio con Bruxelles, no? La politica deve dare l'esempio, cosa che purtroppo nei primi giorni in cui è apparso chiaro che la malattia si stava diffondendo, ha dato il peggio di se stesso. E questo va davvero evitato. Hanno una grande responsabilità, il mondo della politica ha una grande responsabilità e deve farvi fronte. E a fronte di questa responsabilità, insomma, si muove qualcosa dal punto di vista della politica, mi pare, Fabio, perché insomma, si sta ipotizzando addirittura che questa vicenda possa far cadere Giuseppe Conte. Almeno queste sono le ipotesi che circolano dalle parti della Lega e forse anche di Italia Viva. Bisogna serrare le fila e in momenti come questi la distinzione tra governo e opposizione probabilmente va un po' a sfumare. C'è un'emergenza, emergenza chiama emergenza e di conseguenza credo che anche il mondo della politica se ne stia rendendo conto, si sente parlare di un governo istituzionale, probabilmente ci sta. Allora, accennavamo prima alla questione dei vincoli di bilancio, no? Ne ha parlato ieri il commissario europeo Gentiloni, il quale ha detto insomma, che c'è una possibilità, certamente a fronte di una situazione di questo genere, di dare un minimo di allentamento, qualche spazio di bilancio in più. Dall'altra parte però è interessante notare che non collegato al coronavirus, ma collegato invece alle esigenze dei singoli lender, la Germania starebbe per chiedere no, una maggiore flessibilità. Guardate che i momenti di emergenza possono anche rappresentare delle grandi occasioni. In fondo perché non cogliere questo momento per cercare di dare una spallata? Questo paese, in questo caso parlo dell'Italia, ha dei problemi cronici, la burocrazia, le difficoltà a fare le grandi opere, l'impossibilità ormai testata di fare in tempi rapidi una rete digitale di collegamento di tutte le regioni, di tutti i comuni. Accogliamo questa occasione, in fondo siamo capaci di farlo. Chi avrebbe detto che il ponte di Genova sarebbe stato un anno? Eppure è stato fatto. Bene, l'invito, l'appello a tutto il paese è di cogliere questo momento che certamente è di emergenza per dare una spallata. Pensate quanto dovremmo ringraziare il coronavirus se ci permetterà di spazzare via questa malattia grave della burocrazia che paralizza ogni attività che cerchiamo di fare. Cogliamo l'occasione. Sì. Questo è anche un appello, una spallata forte alla burocrazia, ai lacci e lacciuoli che soffocano ogni iniziativa pubblica e privata. Sì, e tra l'altro potrebbe dare una spinta anche allo smart working, vedo dalle pagine del Sole. Si parla di una platea di 8 milioni di dipendenti, se ne ricomincia a parlare, Fabio. Sì, ma non esageriamo, noi abbiamo bisogno di ordinaria amministrazione, non abbiamo bisogno del liberi tutti. Quindi attenzione a forme nuove, come può essere lo smart working, ma occorre anche evitare la sensazione del liberi tutti. Milano nei giorni scorsi, grazie anche alla temperatura favorevole, mite, certamente primaverile, non era quella che i giornali descrivevano con le mascherine, gli scaffali vuoti, i carrelli vuoti, pieni. Certo, era anche quello, ma era anche l'occasione per cui studenti e perfino professori erano al parco a godersi il sole. Ecco, non dobbiamo dare l'impressione che il coronavirus significhi liberi tutti, perché qui questo vorrebbe dire il suicidio dell'economia, il suicidio del paese. Questo noi non lo vogliamo. Allora, grazie anche per oggi al nostro direttore e direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ci ritroviamo ovviamente per il nostro appuntamento consueto del giovedì. Fabio, buona giornata. Buona giornata a tutti. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. Vi raccomando, come sempre, visto che abbiamo 30 secondi in più, di seguirci su Facebook, siamo in diretta, potete seguire la diretta là, siamo su Instagram, su Twitter. Mandateci i vostri messaggi al 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio. E poi a partire dalle 8:20 l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Parleremo prima, ancora una volta, con una esperta, una scienziata. di coronavirus e poi avremo ospite il ministro dell'economia Gualtieri. Le vostre domande anche là. A tra poco.